Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, come mai le nostre pensioni non ci vengono restituite per intero, ma sempre con qualche trattenuta? Io, lavoratore dipendente, le trattenute INPS le ho pagate per intero, però. Non è che mi dispiaccia, io sono convinto che le tasse sia giusto pagarle, almeno per senso civico e di solidarietà. Ed è per questo che dico che sarei disposto anche a pagarne un po' di più, purché al momento di andare in pensione mi venisse reso tutto quello che ho pagato prima. Perché se mi trattengono 10, poi mi restituiscono 8? Che ne fanno degli altri 2? Lo trova giusto? Forse lo è, perché mi rendo conto che il sistema della previdenza sociale ha dei costi di gestione che noi, non addetti ai lavori, nemmeno ci immaginiamo. Ma spero convenga con me che la faccenda mette quantomeno a disagio. Se poi si sente che qualcuno usa i soldi pubblici, tra i quali sicuramente anche i miei, per andarsene in vacanza o fare spese personali, si accetta ancora meno che alla fine dei propri impegni contributivi non ci venga restituito quanto lasciato a disposizione per tanto tempo, seppur volentieri. Jules, Brescia. Cago Jules, non so su cosa si basa il giudizio secondo cui lo Stato o comunque l'INPS ci restituirebbe solo l'80%, 8 su 10, dice lei, di quanto ci viene trattenuto durante la nostra vita lavorativa. Quello che l'INPS versa come pensione dipende da molti fattori: il livello del reddito, l'anzianità contributiva, l'età del pensionamento. Per calcolare la rendita si tiene conto di tanti questi elementi e tra questi delle speranze di vita di chi riceve la pensione. Proprio perché la vita media si sta fortunatamente allungando ed è arrivata a 77 anni per gli uomini e 83 per le donne. E se si vive, ripeto fortunatamente, più a lungo, lo Stato deve pagare di più e più a lungo le pensioni. L'aumento della speranza di vita in Italia in questi ultimi 50 anni è stato di ben 13 anni, dato di gran lunga superiore alla media degli altri paesi europei. Quindi, nella situazione attuale, lo Stato paga complessivamente più di quanto i lavoratori abbiano versato in contributi, tenendo conto, tuttavia, anche del fatto che il sistema attuale è in larga parte a ripartizione, cioè basato sul fatto che i contributi che noi versiamo annualmente sono immediatamente spesi per pagare le pensioni attuali. Qualche riforma negli ultimi anni è stata fatta. Gradualmente, ma molto lentamente, si sta alzando l'età di pensionamento. Si sono rivisti i coefficienti di calcolo per tener conto appunto della speranza di vita più lunga. Si sono introdotte forme di previdenza integrativa. Sostanzialmente, comunque, il sistema pensionistico italiano resta molto generoso e non solo le trattenute sulle buste paga, ma anche la spesa per le pensioni è più alta di quella degli altri paesi. Ho sentito le critiche fatte da Gabriele Muccino a Berlusconi e al fatto che l'Italia si trovi al 49esimo posto per quanto riguarda la libertà di stampa. A parte il fatto che le classifiche sulla libertà di stampa sono cose che non si sa su quali parametri siano basate, vogliamo ricordare a Muccino che se l'Italia è 49esima, la Francia è 43esima e la Spagna dell'eroe Zapatero è 44esima, a pari merito con Capoverde? Gianluca. Muccino ha dato voce a un pensiero diffuso in Italia. Chiunque nel mondo dell'informazione dia fastidio al nostro premier viene emarginato. Carlo. Quando si arriva a tratteggiare Berlusconi come una sorta di mostro, come se fosse un vorace divoratore delle nostre libertà, e poi si fanno affari con lui, come ha fatto Muccino, si è come minimo degli ipocriti. A proposito degli accordi con Gheddafi, molti avevano detto con i dittatori non si tratta. E se per Muccino Berlusconi è il nostro Gheddafi, è indegno che il regista tratti affari con lui. Marco. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, recita il proverbio. Se l'argomento poi è Berlusconi, per qualcuno, oltre alla sordità, si aggiungono tutti gli altri deficit mentali. Ma quelli che inneggiano alla libertà di stampa e di pensiero non minacciata, ma addirittura già sotto il controllo del Cavaliere Nero, ci sono o ci fanno? Muccino fa distribuire i suoi filmetti da Medusa, quindi immagino che, quando si tratta di soldi, gli alti ideali e i principi li nasconda temporaneamente sotto il tappeto. Pecunia non olet, dicevano già gli antichi. Centinaia di anni di storia e progresso e ancora siamo alle prese con questi bassi istinti. Ma questo cineasta, che non sarà certo ricordato per i capolavori, perché non scappa da questo regime dittatoriale? La risposta è ovvia. Ma dove potrebbe trovare questo ambiente di magna magna, autoreferenziale ed elitario di cui si circonda, che è l'humus ideale di questi personaggi artisti del piangi e fotti? E di personaggi così ce ne sono tanti in Italia, purtroppo. Roberto. Caro direttore, vorrei fare qualche riflessione sul fenomeno immigrazione in Italia. È certamente un fenomeno complesso, ma non v'è dubbio che l'immigrazione è una risorsa. Senza dimenticare che l'Italia è stato un paese di emigrazione, ci si trova di fronte a una realtà nuova. Si parla giustamente di dialogo, di integrazione. A me piacerebbe parlare di inserimento degli immigrati nella società. In un momento come questo di forte crisi, si rischia di vedere l'immigrato come un rivale, dimenticando così che gli stranieri stanno raccogliendo le briciole e comunque vanno a ricoprire quei lavori che gli italiani non vogliono o non sanno più fare. Non dico che nel fenomeno immigrazione non ci siano aspetti negativi, ma perché non mettere in evidenza anche gli aspetti positivi? Purtroppo i mass media non aiutano. Molto spesso si parla di immigrati solo per parlare di fatti di cronaca, dove sono protagonisti in negativo proprio gli immigrati. È facile quindi che si diffonda una mentalità che vede gli immigrati non come una ricchezza, ma come una minaccia. Occorre educare le nuove generazioni ad acquisire una mentalità nuova, che non ceda al pregiudizio, ma che veda nello straniero la stessa persona di Gesù Cristo, che in un brano del Vangelo ha detto «Ero forestiero e mi avete ospitato». Walter Carbonia. Dopo l'affermazione del Premier, meno clandestini, meno criminali, i vescovi italiani replicano che, in base ai dati in loro possesso, gli italiani delinquono quanto e come gli stranieri. Ma davvero c'è ancora qualcuno che prende sul serio le parole della Chiesa, quando esterna di politica o di sociale? La Chiesa fa il suo compitino e non può esternare diversamente. Accoglienza, carità, solidarietà, tolleranza, ci mancherebbe altro. Ma non deve manipolare i dati. Se gli immigrati tra regolari circa 7% e irregolari circa 1,5% assommano all'8,5% della popolazione italiana e le carceri sono popolate al 38% da immigrati, significa che gli immigrati delinquono più degli italiani. Anche un ragazzino delle elementari saprebbe mettere insieme queste cifre. In alcune città del nord, poi, la percentuale è ancora superiore. A Trento, il 68% dei carcerati è straniero, per esempio. Basterebbe confrontare queste cifre con le affermazioni della CEI. Ma qual è la convenienza della Chiesa nel lisciare il pelo agli immigrati? Possibile che l'antiberlusconismo porti all'affermazione del ridicolo? Roberto, provincia di Trento. Quando sento portare come giustificazione per l'arrivo di migliaia e migliaia di disperati alla ricerca di condizioni di vita migliore, la favoletta che ci sono dei lavori umili che gli italiani non vogliono più fare e che quindi sono indispensabili, posso solo sorridere amaramente. Non esistono lavori umili, ma lavori mal pagati che solo gente umile e disperata è disposta a fare. Non è forse umile mettere le mani nelle fosse nere, nei cessi o sotto il lavello della cucina dove si accumula lo sporco di mesi? Forse sì, ma è proprio quello che fa un idraulico e non credo venga in mente a nessuno di considerarlo un poveretto, specie dopo aver visto il costo della riparazione. Credete forse che per un adeguato stipendio, diciamo 1.300-1.400 euro regolarmente assicurati, nessun italiano si presterebbe a lavorare come raccoglitore nelle campagne del mezzogiorno? O che con le adeguate protezioni e norme anti-infortunistiche nessuno accetterebbe di lavorare nelle fonderie bresciane per stipendi attorno ai 1.600-1.700 euro? È chiaro che un italiano che ritiene a torto o a ragione di aver raggiunto un certo benessere non è disposto a rinunciarvi. Chi di noi, obiettivamente, è disposto a fare passi indietro? Allora, non sarebbe forse stato più saggio evitare di fornire tanta abbondanza di manodopera a chi poi non si è fatto scrupolo di approfittarne? E ancora, tra le tante liberalizzazioni, che certamente fanno bene al mercato, non sarebbe stato più urgente liberalizzare la manodopera? È la vecchia legge del mercato, più offerta uguale minor costo. Chissà chi ci ha guadagnato. Marzio. Giovedì sera ho sentito con le mie orecchie Berlusconi dire che gli immigrati irregolari, e ripeto irregolari, sono possibile causa di delinquenza. Il titolo a tutta pagina su Repubblica che diceva Berlusconi contro gli immigrati mi sembra molto differente dalla realtà. Se si vogliono dare lezioni agli altri bisogna essere onesti in prima persona. Mariano. dire che in Italia con Berlusconi non c'è libertà di espressione, quando lui stesso viene continuamente attaccato da una certa parte della stampa italiana. Non esistono forse giornali come La Repubblica, L'Unità, Il Manifesto, L'Ultimo Nato, Il Fatto e altri ancora? Non mi si dica che questi giornali sono a favore o neutri nei confronti di Berlusconi. Il signor Santoro è stato forse rimosso dal suo incarico in Rai? Perché non fate una verifica, rendendola pubblica, sulle tirature dei giornali apertamente pro, contro e neutri nei confronti di Berlusconi? Io credo che sarebbe un elenco interessante e, secondo me, vincerebbero i giornali contro Berlusconi. Umberto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.